Letture di Radio 24. Passata l'ondata delle proteste contro Obama, che voleva intervenire militarmente, la Siria è ancora in guerra e le stragi continuano. Intanto noi siamo tornati a guardare da un'altra parte e, scegliendo di non scegliere, abbiamo in realtà scelto da che parte stare. L'improvviso e pressante interesse dell'opinione pubblica per il destino della Siria è durato molto poco. A voler essere precisi, è durato il tempo intercorso tra il giorno in cui gli Stati Uniti hanno detto che bisognava occuparsi delle atrocità che stavano accadendo in Siria e il giorno in cui la prospettiva di un intervento statunitense è stata accantonata. Non prima, durante un momento qualsiasi dei 2 anni di guerra civile che hanno portato alla morte di 100.000 persone e hanno creato 2 milioni di rifugiati. Non dopo, quando un accordino impraticabile ha sostanzialmente permesso la prosecuzione della guerra, garantendo alle parti in causa di preservare lo status quo senza perdere la faccia. Forse è accaduto per la facilità con la quale ci muoviamo dentro schemi che ci sono familiari e che quindi fanno scattare riflessi condizionati, comodi e rituali. Per esempio, il cliché liceale delle proteste contro la potenza americana imperialista e colonialista, anche quando non si tratta di iniziare una guerra, bensì di fermarla. Forse è accaduto perché l'opinione pubblica italiana è già così stremata dalle sue sofferenze che l'idea di dedicare risorse e attenzioni a quelle di altre persone così lontane, per quanto infinitamente più gravi, non ha trovato spazi, non ha trovato aria. Dopo aver passato anni a ripetere un altro luogo comune, quello per cui la democrazia bisogna volerla, non si può esportare, va conquistata, abbiamo pensato che la guerra tra un regime crudele e violento e un movimento laico e democratico non ci riguardasse, non riguardasse cose come l'universalità dei diritti umani, la fratellanza internazionale, l'umanitarismo. Loro sono siriani, noi no. Facessero da soli se ci riescono. Siamo rimasti di quell'idea disinteressata e immobile, fino ad arrivare ad oggi, quando col tono di quelli che la sanno lunga, che hanno visto il mondo, diciamo che in Siria è un casino, che intervenire è inutile. Non ci sono i buoni. I ribelli sono divisi, nessuna delle parti merita il nostro sostegno. C'è un film molto bello girato nel 2001 da un regista bosniaco e ambientato durante la guerra tra Serbia e Bosnia nel 1993. Si chiama No Man's Land. È piccolino, ma vinse una montagna di premi, tra cui l'Oscar. Racconta con leggerezza e insieme profondità storie di guerre complicate e di ancora più complicate responsabilità internazionali. Ad un certo punto la protagonista, esasperata per la rivendicata inutilità della forza di interposizione dell'ONU, dice una verità banale e assoluta. Non esiste neutralità davanti all'omicidio. Non fare niente per fermarlo è, a tutti gli effetti, scegliere da che parte stare. Se 3 persone menano un tizio sul marciapiede davanti al tuo e tu tiri dritto, non sei neutrale. Hai deciso da che parte stare. Se la cosa non ti convince, prova a metterti nei panni del tizio che chiede aiuto. Scegliendo di non scegliere, in Siria, abbiamo deciso da che parte stare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Costa «Perché ci siamo dimenticati della Siria», pubblicato dal mensile Il di novembre. In Germania, nella diocesi di Limburg e in Assia, il vescovo alloggiava in una casa costata 31 milioni di euro. Ma Monsignor Tebarz non se la passava male anche quando si allontanava dalla sua diocesi. Per i suoi viaggi pastorali prenotava solo voli di prima classe, anche quando andava in India a visitare i poveri. Ora il Vaticano è intervenuto, in linea con il nuovo corso di Papa Bergoglio. Chiesa povera per i poveri, sognata da Papa Francesco, non c'è spazio per una vasca da bagno costata 15.000 euro, né tantomeno per una residenza ristrutturata al prezzo di ben 31 milioni. Al punto che la diocesi di Limburg, in Germania, è diventata un luogo di attrazione di turisti armati di macchina fotografica, decisi a fissare per sempre un simile prodigio immobiliare. Così la scure del pontefice si è abbattuta, pur graziandolo per quanto riguarda il rango e il mantenimento della sede episcopale, sul vescovo spendaccione Franz Peter Tebarz van Helst. L'ordinario di Limburg non perderà il posto. Sarà però sospeso per un periodo che trascorrerà fuori dalla diocesi. Limburg finisce sotto il controllo di un vicario generale che si occuperà di tutte le questioni amministrative. La Santa Sede ha deciso dunque di regolare, dopo alcuni mesi di forti polemiche, la vicenda del Monsignore finito nell'occhio del ciclone per le foto che lo ritraevano a bordo di fuoriserie e dotato di biglietti aerei di prima classe per andare a benedire i poveri dell'India. Lo scorso 21 ottobre il vescovo tedesco era stato ricevuto dal Papa. Durante quel colloquio, secondo alte fonti che ne hanno riferito a Repubblica, l'ordinario di Limburg ha ammesso gli errori. Il più rilevante è un gravissimo difetto di comunicazione per quanto riguarda l'importo delle spese, che non era stato nemmeno comunicato preventivamente. Il Monsignore si è quindi scusato e ora dovrà sottoporsi a un periodo di meditazione e di riflessione. Si apre per lui una sfida complessa. Se riuscirà a riconquistare il cuore della gente, rimarrà al suo posto. In caso contrario, il Vaticano lo ritirerà definitivamente. E comunque, la sua candidatura a prossimo vescovo di Colonia, considerata prima forte, è definitivamente saltata. La soluzione viene giudicata dalla maggior parte degli osservatori come molto equilibrata. Non umilia del tutto il vescovo, in un'indagine che è comunque ancora in corso, e soprattutto fa fronte all'indignazione dei fedeli. La procura di Amburgo ha chiesto contro di lui l'apertura di un fascicolo per falsa testimonianza, per aver mentito sulle accuse rivoltegli dal settimanale Der Spiegel sul viaggio in India. Anche i vescovi cattolici si sono detti sollevati per la decisione di Papa Francesco. «Si apre uno spazio per ritrovare in questa situazione una calma interiore», ha commentato il presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, Monsignor Robert Zöllich, «e creare una nuova base di dialogo». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Ansaldo, «Germania, troppi lussi nella diocesi», pubblicato da Repubblica di giovedì 24 ottobre. Una parte del mondo guarda con sospetto ai cibi geneticamente modificati e alle volte il sospetto si ingigantisce fino a diventare paura. Ma è poi vero che gli OGM fanno male? In America molte voci e molti studi dicono di no e sostengono che i pregiudizi europei sono isterici e irrazionali. È da quasi 20 anni che gran parte del mondo si nutre con cibi OGM e ancora non ci è successo niente. Nessuna epidemia, nessuna mutazione, eppure la paura irrazionale per le colture geneticamente modificate si fa di anno in anno più forte in molte zone del pianeta. Quanto dovremo aspettare ancora perché l'isteria finisca? Se lo è chiesto sul Wall Street Journal Mark Van Montagu, scienziato della Ghent University in Belgio, che pochi giorni fa ha vinto il World Food Prize, considerato il premio Nobel per il cibo. Se l'India è diventata un paese esportatore di cotone, se in alcune zone l'uso di insetticidi è stato ridotto del 25%, se nel mondo il numero di persone malnutrite si riduce nonostante l'aumento della popolazione, il merito è in gran parte degli OGM. Questo, scrive Van Montagu, senza che nessun problema per la sanità sia mai stato documentato. Gli OGM, anzi, offrono un record di sicurezza senza precedenti, ma in Europa e in molti paesi in via di sviluppo dove la produttività degli OGM sarebbe essenziale, un'isteria disinformata blocca produzione e ricerca. Anche in Italia la politica, cavalcando paure irrazionali, è tutta avversa alla diffusione di colture transgeniche, con poche eccezioni. Studi screditati ma diffusi con sapienza hanno accusato le biotecnologie di qualsiasi nefandezza, dalla diffusione di malattie alla vecchia bufala smontata anni fa dei semi OGM che sterili avrebbero condotto i contadini indiani al suicidio. Nessuna di queste invenzioni ha trovato conferma. Se non si crede alle ricerche scientifiche, basta guardare alla storia, ormai lunga 2 decenni. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Non si muore di OGM, pubblicato dal Foglio di giovedì 24 ottobre. In Italia ci sono 1.200.000 studenti liceali. Da quest'anno alcune centinaia di loro sperimentano un nuovo corso di studi. Stesse materie, stessi programmi, ma in 4 anni invece di 5. Un nuovo modo di fare scuola, sostengono gli ideatori della sperimentazione. 40.000 cattedre in meno, rispondono i sindacati. Il liceo in 4 anni ha il via libera del ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Maturità con un anno di anticipo. All'università o al lavoro prima dei 18 anni, come in altri paesi europei. La sperimentazione è stata autorizzata per 3 scuole paritarie: il Collegio San Carlo di Milano, il Guido Carli di Brescia e l'Istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio. La prima maturità anticipata sarà quella dei liceali milanesi il prossimo anno. Nell'istituto religioso di Corso Magenta il progetto era stato avviato 3 anni fa con un primo, parziale sì, del ministro Maria Stella Gelmini e poi con l'assenso di Francesco Profumo. Poi era partito a Brescia e in provincia di Varese. Il sì del ministero è arrivato per tutti dopo l'estate. E in Viale Trastevere si dice che il ministro vorrebbe introdurre il modello del doppio biennio anche nei licei statali. Immediata la reazione dei sindacati. Comprimere il percorso scolastico comporterebbe sul quinquennio la perdita di 40.000 cattedre e un risparmio di 1.300.000.000 di euro, dice il presidente dell'ANIEF, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, Marcello Pacifico. Un percorso di studi ridotto, come i licei italiani all'estero, che durano 4 anni. Intanto dal San Carlo il rettore Donaldo Geranzani replica ai sindacati. L'innovazione non ha impatto sull'organico né sulle risorse, nessun taglio, nessuna riduzione, piuttosto un nuovo modo di fare scuola che ci allinea all'Europa. Al liceo internazionale del Collegio Milanese oggi sono iscritti 100 studenti, 2 classi prime, 2 seconde e 1/3. Il livello è alto, svolgiamo gli stessi programmi dei licei italiani, non quelli delle scuole internazionali, assicura il rettore, ma il metodo è nuovo. Al San Carlo ci sono classi da 20 studenti, metà degli insegnanti madrelingua inglese, lavagne luminose e iPad, anche lezioni in video chat per gli studenti in stage all'estero. L'offerta è ricca, ma è una scuola privata, le famiglie pagano rette da 9.000 euro all'anno. Possibile replicare questo modello nella scuola pubblica? Il metodo è esportabile anche con meno risorse, sostiene Donaldo Geranzani. Tanti presidi mi hanno già contattato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federica Cavadini, Parte il liceo breve, pubblicato dal Corriere della Sera di giovedì 24 ottobre.